fanno insieme Giuseppe Cruciani e David Parenzo? Un programma radiofonico canottaggio. Programma telefonico. Programma telefonico. Radiofonico. Cosa ha detto radiofonico? Radiofonico, io ho detto. Lei cosa ha detto? Ah sì, programma radiofonico. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La mia ragazza mi ha detto, dalle 18:30 in poi, scegli o me o la zanzara. E io gli ho risposto, siamo al top. Tra poco sono in Italia, vengo giù dalla Germania. L'unica cosa che mi interessa è ascoltare la zanzara in diretta sulla radio della macchina. L'unica cosa, non me ne fotte un cazzo dei parenti, dei mia madre, degli amici. Voglio solo ascoltare la zanzara in diretta, tutta la pubblicità e il traffico. No questi cazzo dei podcast, solo la zanzara in diretta. Allora, caro Parenzo! Io comincerei con un urlo. Comincerei con un urlo anche stasera. Con un urlo feroce. Urlo. Fermo. Ma che è successo? Oh. Fermo. Ma che è successo? Oh mio Dio. L'urlo di Richard Benson. Sì, detta così sembra anche un artista straniero, in realtà. Chitarrista, che ne so, come si può definire, sì, non basta, lo so. Basta. Chitarrista, basta. Cantante, eccetera, sì, cantante. In grandi difficoltà cantante. Economiche. Lucio Dalla è un cantante. Lucio Dalla è un cantante. Branduardi è un cantante. De Gregori è un cantante. Vasco Rossi è un cantante. Non questo, sì, per carità, questo signore anche simpatico, ma questo qua fa queste urla beduine, è un cantante, lo definisci tu. Comunque, boh. In grandi difficoltà economiche. Mi dispiace. Questo, alcuni mi spiace. Ascoltatori si sono offerti per aiutarlo, altri sì, invece vabbè. Se ne sbattono i coglioni e dicono che è un buffone, vai a lavorare, eccetera, ecco, eccetera. Sì, le solite reazioni, insomma. Sì, normale. Vi faremo ascoltare tutto sì, più avanti. Tutto. Fondamentale. Allora, follie referendarie, non si può vedere, non si può vedere l'omofobia ovunque, però io lo dico al signor Scalfarotto, eccetera, che è infuriato per lo spot contro il sì al referendum con l'uomo e la saponetta nella doccia, l'uomo e la saponetta nella doccia. È praticamente uno spot contro il sì, cioè tu ti abbassi, no, la classica saponetta nella doccia, e ti inchiappettano praticamente. Vabbè, no? È un'immagine schifosamente omofoba che collega il rapporto uomo a una cosa sempre violenta e umiliante. Ma amico mio, il rapporto omosessuale significa l'inchiappettamento, di cosa ti vuoi lamentare? Sì, cioè, non è che uno farei l'analisi, no, però, ma non è così. L'analisi. Ma qual è la cosa umiliante? È uno spot. Ma è uno spot fatto male, sbagliato. Ma perché? Però. Dov'è volgare? L'omofobia? Dov'è l'omofobia? Ma non è l'omofobia, è uno spot volgare, come dire che se non voti una cosa la pigli nel cesto. Vabbè, nel sacco. Ma si è sempre detto, no? Ma fatta, cioè... Sì, ma ho capito, ma qui non siamo ad Animal House, però cioè, è una campagna politica, non è Animal House. Quello uno ragazzi. Parla di scrofa, l'altro parla di killer, eccetera. Ma sì, di che parliamo? È tutto dai. Finito, appunto. Dai. Allora, il signor Odifreddi, il filosofo Odifreddi, presunto filosofo Odifreddi, che dice che l'ombrosianamente De Luca appare come un camorrista, cioè siamo all'ombroso. L'ombrosianamente e De Luca appare come un camorrista. Ma cioè, ragazzi, è veramente una follia, cioè veramente una roba ridicola. Oh. intanto la Bindi comincia a vendicarsi e intanto cerca di informarsi se quella roba del dei soldi dati in Campania si possa configurare come voto di scambio. Si informa presso la Procura di Napoli, sì. Caro Palestra, la Procura di Napoli. De Luca avrebbe detto, è stato bippato ieri sera, mannaggia la M, una specie di semi bestemmia. Senti. Vuol dire che gli piace la gnocca, che guardi, dice lei. Qua quando andate? Quando adesso, lei sta Trump come Rosy Bindi. Quella è stata una cosa infame che ha fatto questa. Quella degli impresentabili. Una cosa infame da ucciderlo. Poi parla pure Zucconi che dice De Luca indifendibile produce i Trump, 5 Stelle, porta voti. Zucconi. De Luca è indifendibile. De Luca è la testimonianza di una maniera di concepire la politica e l'amministrazione pubblica che è quella che poi produce naturalmente i Trump, i 5 Stelle, il populismo di cui si parlerà più avanti, la reazione di rabbia, di pancia, però è uno che prende un casino di voti, quindi diventa difficile da toccare. Crozza imita Grillo. Ma tu dove cazzo vivi? Prima la grande esplosione. Ma di cosa parli? Ma non ci sarà una grande esplosione. Ma quale grande esplosione? Ma l'esplosione è benissimo, l'apocalisse! No, ma non c'è nessuno. L'apocalisse! Ma non c'è l'apocalisse! Tu non hai idea di cosa può succedere se vai a votare sì. Ma cosa vuole che succeda? Tu esci dal seggio, attraversi la strada. Passa un tir che trasporta ferro, sbatte sul palo della luce, i fili si aggrovigliano nel ferro, prende un grande magnete. Il magnete sposta l'asse terrestre, la Terra impazzisce, va a sbattere contro il sole esplode, diventa un buco nero, cazzo. Idiota l'universo, il buco nero. Allora Berlusconi, questo Berlusconi, è importante, Berlusconi. Dai, questo è interessante. Beh sì, interessante. Adesso questo non è esageriamo. Molto interessante, ne discutono tutti, ne discutevo anche oggi. Ma non ne discute nessuno. Durante la prima colazione di stamattina. Ma non ne discute nessuno. Durante la prima colazione discutevo solo di Mediaset questo, la gente discuteva per di il questo. Sì. Ecco. Dice Mediaset è per il sì. Perché? Per paura di ritorsioni. Oh, questo è interessante. Ma però è una cazzata. Ma qual è? Capito, la... Ma è interessante politicamente questa sì, cosa. Ma però. Dai, ma quale ritorsione? Si denota una spaccatura tra Berlusconi e Mediaset. Però intanto informiamo. Arcinota, è vero che lo dice esplicitamente? Ecco qua. Comunque, sentiamo il Berlusconi. Cioè, lo dice che c'è un partito azienda e c'è Forza Italia. Lo dice lui. Vabbè. Che noia. Lo so. Presidente, le sue aziende, le aziende delle quali lei è il maggior azionista, Mediaset, cioè tutto il suo gruppo e i manager sono orientati per il sì. Perché hanno paura di un periodo di instabilità che si creerebbe. No, hanno paura della possibile ritorsione di chi ha il potere. Addirittura. Sì. Allora, è vera soprattutto la prima cosa, non c'entra niente, la ritorsione di chi ha il potere. Che cosa può fare il signor Renzi con Mediaset? Anzi, c'ha ottimi rapporti, mi pare, visto che va spesso ospite negli studi. Ma di che Biscione parliamo? Vabbè, ma quello fa anche ascolti, per cui sì, lo invitano comunque. Certo, cioè, però il problema è, dai, sulle ritorsioni, le ritorsioni. E questo vuole dare l'idea del potere che si vendica nei confronti di Mediaset. Sì, no, sì, dai, sì. Ma è ridicolo, dai, su. Dice che si è messa a piangere quando hanno introdotto l'euro, Berlusconi, ha raccontato. Ho pianto con l'introduzione dell'euro, ti giuro. Ha raccontato questo. Forte. Sì, ma tu ci credi a questa cosa qua? No, assolutamente. Ah, ecco, appunto. No. Cioè, tu credi davvero che Berlusconi, nel lontano, non mi ricordo quando, eccetera, eccetera, No. Si mise a piangere quando introdussero l'euro. Faccio fatica a credergli, diciamo. E dai. Io ho letteralmente, fisicamente, pianto quando l'Italia ha rinunciato alla sua sovranità monetaria e poi quando l'euro è stato cambiato con la lira, 1936 lire per un euro. Berlusconi che piange per il cambio a 1936! Dai, su. Ma perché dobbiamo... Cioè, adesso veramente uno si può credere ancora a queste favolette? È Berlusca, cioè, è il Berlusca. Ho capito, ma la gli vogliamo bene anche per questo, sì, a Berlusca. Sì, perché... Per carità, per carità. Cioè... Perché gli vogliamo bene. È da abbracciare fortissimo. Poi ritorna con la dittatura di Renzi e dei 5 ancora. Stelle, cioè, ancora con questa dittatura. Potrebbe essere che ci fosse uno scioglimento delle Camere, si va a votare con questa legge elettorale e ci troveremmo dentro una non democrazia, dentro una vera e propria dittatura, che potrebbe essere una dittatura di Renzi e del Partito Democratico o una dittatura di Grillo e dei 5 Stelle. È un rischio troppo grosso che non possiamo permetterci. Allora, la traduzione di tutto questo qual è? Siccome oggi non sono forte come un tempo, l'unico modo per mantenermi a galla e per contare è il famoso proporzionale, certo. Cioè il modo per fare un governo insieme agli altri, perché non sono così forte da battere né il signor Grillo né il signor Renzi, e dunque non c'è nulla di dittatura, le cose, perché se fosse lui forte la dittatura la vorrebbe, cioè vorrebbe il comando dell'uomo solo, l'abbiamo detto mille volte, ogni volta ci fa tornare su questo, mi sembro un incoglionito pure io, cioè sono alterosclerotico pure io, torno sempre sulle stesse cose, dai. Allora mi tocca citare Ludwig che dice: se vince no il giorno dopo Edward la terra Ludwig. Se vince no il giorno dopo la terra ci sarà ancora. Senti. Credo che anche se questo referendum non passa, è probabile che il giorno dopo ci sarà ancora il cielo e la terra e così via. Quando faccio sesso col mio ragazzo gli dico: nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta La Zanzara. Allora, è talmente una buffonata questa cosa del voto all'estero, caro Parenzo, del voto degli italiani all'estero. In che senso una buffonata? Una buffonata che andrebbe abolito. La minaccia di ricorso, no, ma quella pure. O la polemica? Andrebbe abolito il voto degli italiani all'estero. Questo siamo per d'accordo. Come è fatto adesso, ma in siamo generale d'accordo. Andrebbe siamo abolito. D'accordo. Siamo d'accordo. Allora, ma ti dico, è talmente una buffonata che invito quelli che hanno ricevuto una scheda a votare e a mandarci il loro voto, che dunque non è un voto segreto. Cioè io ho in mano già dei WhatsApp di persone che hanno votato e mi hanno mandato come hanno votato. Un reato? Dunque un non reato, esiste, sai, no? Non me ne reato. Frega un cazzo che sai sia che un reato. Reato io ho dei WhatsApp, la scheda elettorale. Ho un dei reato. WhatsApp con la scheda elettorale prima che questa scheda sia stata messa dentro la busta e poi inviata ai consolati. Vabbè, dove però bisogna quello mandare. Scusami, quello lo può fare chiunque nel seggio, no? Cioè quello non è che non so se sia un reato o no. Io ti sto dicendo no, semplicemente fotografare la scheda ti elettorale sto dicendo mandarla che il voto... in giro è un reato. E io ti è sto dicendo che e invito tutti quelli che ci stanno ascoltando, e sono molti, cioè a commettere un reato. Non me ne frega tu niente, non commettono. Istighi a commettere un reato, cioè a fotografare la scheda elettorale e che hanno ricevuto. E cosa prevale dal tuo osservatorio? A il votare, sì o no? A cosa votare prevale? Il no. A votare, a votare. Me ne stanno arrivando già 4, 5, male, 6 di persone male, che hanno votato, fatto il WhatsApp, fotografato la scheda e poi spedita la scheda al consolato. Dunque manca totale, al di là della questione. Vabbè, però questo che vuol dire? Cioè, sai che si possono comprare, no? Le schede. Cioè, si possono comprare le ma schede. Ma quello certo, ma quello cioè, però tu si chiami, può fare. Scusi, mi dacci in qualche io frega devo dare. Do 100 euro, mi dai la scheda? Tu vabbè, ma questo però avviene spesso anche al sud, abbiamo documentato, no, visto sì, quello ma... che succede anche al sud in davanti questo caso ai seggi. È facilissimo farlo. Ma non è una peculiarità è del voto degli italiani all'estero, però è questo. È facilissimo farlo in quel cioè, caso. Cioè teoricamente, se tu vivi all'estero, vivi a Londra, ti arriva la tua busta chiusa del ministero. Poi qualcuno ti dice: do 100 euro, fammi votare a me. Vabbè, ho capito, ma quello può succedere anche in Italia fuori dal seggio, però perché dovrebbe succedere di più all'estero? Mandatemi le schede, mandatemi le fotocopie delle schede, tanto per dimostrare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che il voto all'estero è totalmente finto, falso, mancano i presupposti, la segretezza, tutto. Dunque beh, i ricorsi vanno. Sì, ma non, cioè, non è voto segreto. Cioè, non ma è, un voto... è un voto segreto. Ma non è segreto. Ma non scusami, è segreto. Ma scusami, ti arriva a casa quella busta, la apri, voti, chiudi la busta e la spedisci all'ambasciata. Dov'è il problema? Non ho... Al ministero, scusami, dov'è il problema? Ti dico che prima di mandare la scheda me l'hanno già mandata a me. Mi hanno ho già capito, fatto sapere prima che venga scrutinata. Mi hanno già fatto sapere come vabbè, come queste votato. Persone hanno commesso un reato. Ma non hanno commesso nessun reato. Certo che hanno commesso un reato, certo. Ma ti assicuro. Allora, la canzoncina di Natale odiata dalla Lega. Sì. Più o meno è questa, il Natale di cioccolata, sentiamo. C'è un silenzio un po' speciale nella sera di Natale. Poi d'un tratto notte si apre il cielo e non c'è più freddo e gelo. Una slitta terra e strada tra brillanti di rugiada. Il bambino è spaventato, chi è quell'uomo che ha atterrato? Sono io, Babbo Natale, è speciale questo giorno. Ti ho portato un sacco pieno di permessi di soggiorno. Vi ho portato un sacco pieno di permessi di soggiorno. Nuova colonna sonora della Zanzara da qui al 24 ma quando, di dicembre. Ma senti il signor Salvini, Salvini si mette anche a commentare le canzoncine di Natale. Incazzato nero. Se Salvini non ha niente di meglio da fare che commentare una canzoncina di Natale. Piccolo paese in provincia di Parma, senti. Questo dice la canzoncina. C'è un silenzio un po' speciale nella sera di Natale. Tutti sono più contenti, solo un bambino batte i denti. La sua pelle è cioccolato, al freddo non è abituato. Vende Kleenex e accendini, bussa piano ai finestrini. Lui non sa che cos'è Natale, vedendolo lì, solo viene proprio naturale il portarlo a festeggiare. Stiamo arrivando alla fine. Sono io, Babbo Natale. È speciale questo giorno. Ti ho portato un bel sacco pieno di permessi di soggiorno. Allora ragazzi, però è vero, è vero pure che c'è un bambino che vende i Kleenex, i Kleenex e gli accendini ai semafori. Economia informale si chiama. Ma non è bello un bambino che vende i Kleenex e gli accendini, dai. Perché un bambino dovrebbe andare a scuola, non c'è dubbio, questo è delirante, non è un criminale, va. Però poi lo si manda a scuola e personaggetti come Salvini dicono: "No, ma come dobbiamo pagare l'istruzione a questi immigrati clandestini?" Sì, certo, gli dobbiamo pagare l'istruzione, ovvio. O preferisci vederli agli angoli delle strade a vendere degli accendini? Ma dai, mettetevi d'accordo allora, disumani che non siete altro. A me non me ne frega niente di un piccolo paese in provincia di Parma. Trovo che l'immagine del bambino Ma ti rendi conto che un politico si mette a cantare, a commentare una canzoncina di Natale che racconta questa storia straordinaria di questo bambino di colore che aspetta solo, anela solo di avere il permesso di soggiorno. Ma è meraviglioso. E se non ha diritto? E se non è profugo? Comunque, ragazzi miei, che vi devo dire? Ma resta solo una cosa, l'unica cosa che resta è l'urlo, l'urlo è l'unica cosa che resta. Ogni tanto bisogna rispondere con l'urlo. Eccolo, il ritorniamo. Basta, ma sta male. Mamma mia, Richard Benson. Ogni tanto che c'è qualcuno che dice una cazzata dobbiamo mettere l'urlo di Richard Benson. Sì, esatto. Francesco da Roma, dai. Commento, esattamente. Esattamente. Francesco da Roma, dai. Che è un po' come l'urlo di Giannino. Ti ricordi l'urlo di Giannino? Pronto? Sì, come no. Cioè. Che è sto casino, Francesco? Che è? Allora, c'è il casino, c'è la Bolkestein in mezzo qui, Luciani. Che c'è la Bolkestein? Oddio, questi sono gli ambulanti che rompono i coglioni. Ma come rompono i coglioni? Luciani, come rompono i coglioni? Che volete, ambulanti? Che volete? Che volete? Siamo la mattina alle 4, vogliamo andare a lavorare soltanto. Vai a lavorare, ma che vuoi da me? Vai a lavorare. Cioè, ma adesso... carino, me levano i posti, come faccio a andare a lavorare? Ma che levano i posti? Aspetta, sentiamo dai, le istanze del lavoratore. Ma sentiamo le istanze. Tu che ambulante sei? Che sentiamo vendi le istanze del lavoratore. Io vendo le borse. Le borse false. No, che false? Ma che false? Sto cazzo. Saranno false. Io provo a difenderla. Se lei però... i negri come voi e borse false. I negri. Ma il negro sarà lei, negro. Se io lei non usa sono un negro. Linguaggio così crudo, però. Ma se non capisci che cosa fanno gli ambulanti, sei negro pure tu, no? Ma scusa, perché i negri che c'hai contro i negri? Non lo difendo che c'hai contro i negri? Sì, no, non c'è niente, però vendo le borse false. Ma anche tu vendi le borse false. Anche l'italiano. Amico mio. Anche gli italiani vendono le borse false. Amico mio, non è vero questo. È vero, che è, pieno, è vero che è pieno di cioccolatini in spiaggia che vendono le cioccolatini in senso di neri. Pieno di fratelli neri che portano quelle sono le cosiddette economie Francesco, laterali. Aspetta economie lì, laterali. Che state a fare? Piazza Navona, dove stai? Oh! Vabbè. Piazza Venezia. Mo dopo ti richiamo. Che state a fare? Bloccate la città? No, basta, avete rotto i coglioni. Dai, la gente deve lavorare, deve muoversi. Italiani! Vota Parenzo, vota Parenzo, vota Parenzo, vota Parenzo, vota Parenzo. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presento La Zanzara. Dalle periferie ripartiremo, faremo strada per strada, casa per casa, parleremo con tutti, donne e uomini della città. Ho capito. Andremo a vedere gli asili nido, quanti sono, quali sono. Abdallah Kabakemji già scrive, hai già l'appoggio delle comunità musulmane. Abbiamo vinto, abbiamo già vinto. E ripartiremo però simbolicamente dalle periferie, quelle periferie che Bitonci voleva sulle quali Bitonci voleva investire dove non ha investito. Ritroveremo spazi. Ragazzi, siete tanti, lo so, ma ce la faremo, riconquisteremo questa città. Allora. Siamo qui a dire ricostruiremo Padova. È già l'inno, il trailer della campagna elettorale parenziana. siamo qua, pronti ad andare casa per casa, strada per strada, da Prato della Valle all'Arcella, dal centro alla periferia. Vabbè, una città cresce, silenzio, una città cresce solo se è unita, solo se è insieme. La comunità africana a fianco alla comunità rom, la comunità padovana a fianco alla comunità africana. Più rom e più africani. Lei fa propaganda, si cresce insieme. Una città violentata, ferita in questi anni e riportata a livelli del sud-est asiatico. Una città che ha bisogno di ritornare centrale nell'Europa. Una città all'università, cioè, ve lo voglio raccontare, la cattedra di Galileo Galilei. Ma cosa c'entra? Ma non frega quello straordinario monumento dal quale Galileo Galilei faceva. Ma la gente vuole i rom fuori dai coglioni. Speculazioni. Bene, noi diciamo Padova sarà la città della scienza. Padova, città della scienza 2017. Questo lo mettiamo. Sì, un grande accordo con l'università, un grande accordo con le grandi istituzioni culturali di questo paese. A Padova costruiremo l'Institut du Monde Arabe, il te lo dico io, l'Istituto come a Parigi, come c'è a Parigi, costruiremo il grande istituto di mondo di cultura araba, faremo arrivare qui i più grandi intellettuali dell'Oriente e discuteremo insieme, cattolici con musulmani, ebrei con musulmani, ebrei con cattolici, laici, atei, agnostici razionalisti. Rotti in culo, sì. Questo anche per loro c'è spazio. A Padova c'è, sì, anche per loro. A Padova c'è spazio per tutti, ma nel rispetto della legge, nel rispetto della legalità. Se uno dei tanti puttanieri del nord-est pensa di mettere piede a Padova e di fare merce, di usare allora il corpo, verrà multato, identificato, spedita a casa la multa e fatto un grande cartello all'ingresso della città. Padova vi ospita, ma Padova non tollera il mercimonio della donna. Vota Parenzo, Padovani! Vabbè ragazzi, allora eravamo in collegamento con Francesco da Roma che vende, dice, delle borse, un'ambulanza. Che vende? A Cruciani? Hai detto che vendi delle borse regolari? No, mi devi ascoltare sulla Bolkestein, La Bolkestein, amico mio. Ma questa è la Zanzara, ma non è mica Focus Economia, la Bolkestein. Ma noi cerchiamo la mattina alle 4. Che cosa state facendo in piazza? Vai a dormire! Ti si alza alle 4, vai a dormire! Sono 19:20, vai a dormire! Far serio. Che vuoi dire? Sulla Bolkestein, sulla Bolkestein non ci rinnovano le occupazioni, solo pubblico nei mercati, non ce le rinnovano, fanno i bandi liberi e quindi chiunque può prendere le nostre postazioni, che è una vita che ci lavoriamo, abbiamo fatto un avviamento commerciale. Bene, hai riassunto bene quella è la storia. No, non ho riassunto nulla, perché ma che vendi tu? Che vendi? Cose interessanti? No? Posso comprare qualcosa? Ma forse? Bolkestein no. Ma fammi comprare qualcosa, magari è interessante, ma che c'hai? Che roba c'hai? Ma c'è tutta roba importantissima e tutta roba per me. Ma che cosa c'hai? Dimmi. Che c'hai? Tipo? Le borse di pitone, le borse in 300. Le borse di pitone. Ma la bacchiccissima. Le borse di pitone. Ti scateno contro gli animalisti, amica mia. Ma che di allevamento di pitone. La borse di pitone. Cioè, ancora la gente compra ancora le borse di pitone. E quanto costa una borsa di pitone? Dipende dal cliente il prezzo. Eh? dipende dal prezzo del cliente. Ma tipo, quanto dipende dal cliente, appunto? Il negozio costa, volevo vendere, costano 1100 al negozio, io le vendo 600 euro, capito? Quanto cattivo allora, gusto. Allora ragazzi, volete una borsa di pitone? Volete una borsa di pitone? Diamo una mano a sto signore qua, sto disgraziato, sì, sto morto di fame qua. Olimpico, è morto di fame. Sarai sicuramente un morto di fame, sicuro. Cioè, se vendi le borse a Villaggio Olimpico, sei morto di fame. Ma non c'è niente di male essere morto di fame. Ma tu mi fai spiegare la borsa, non mi rompi di cazzate. Ma quali hai parlato di negri prima? Che cosa vendono i negri? Che cosa vendono i negri invece? Quello che gli permettono di vendere. Ma i negri però è ottimo, vendono anche i falsi, gli uomini, i ragazzi di colore, i senegalesi. Ma vai a spiegare bene. Ma l'hai già spiegata la famosa Bolkestein. No, perché le risorse naturali col cazzo gli hanno tolto quelli che hanno in campi cistici. A chi? Ah, vabbè, ma adesso non possiamo andare sulla risorsa naturale, amico mio, dai, su. Amico mio che? A quelli che stanno però è buona, borsa di pitone a 600 euro. Dunque ragazzi, se volete una borsa di pitone a 600 euro è di un cattivo gusto. Perché? Borsa di pitone a 600 euro, Villaggio Olimpico, Francesco, giusto? Io non mi sono mai fidanzato con nessuna che avesse una borsa di pitone. Lo so che non hai telefonato per questo, però io voglio trasformare questa telefonata. Io trovo disgustosa la borsa di pitone. La trovo volgare e disgustosa la borsa di pitone. Ma perché è volgare la borsa di pitone? Perché? Perché è volgare? Ma perché? È disgustosa la borsa di pitone, ma che è una volgarità inaudita, dai, è di un kitsch. Quando la comprano 5.000 è figa. Ma che me frega a me? Ma che me frega quando la compra? È volgare la borsa di pitone. Comunque questo qua ha chiamato perché è incazzato, state bloccando le piazze, le strade, tutte. E barricate. Facciamo aspetta, apriamo subito il collegamento con la piazza. Collegamento con la piazza, Piazza Venezia. Gli ambulanti bloccano tutto. Vabbè. E allora ti volevo dire, ecco, se mi fai finire, quello delle borse di pitone, che quello delle borse in pitone, che tra poco noi si tolgono le concessioni dei mercati, amico, quindi siamo un po' arrabbiati. Andrea vende borse di pitone spiaggia, amico, come i negri, come dici 200.000 famiglie stanno a posto così. Ma non credo, non succederanno queste cose, dai, su. Ma come, c'è la legge. Vabbè, comunque amico mio, ma noi siamo a favore di tutte le proteste, tutte le piazze aperte, vabbè, noi ti appoggiamo, infatti ti sto dicendo, tanto volevo dire che il 29, che è martedì, siamo tutti a Piazza della Repubblica a Roma con 500 furgoni. Ma fate cazzo la mattina alle 9. Ci fa piacere. Scusa, ma hai già protestato oggi? Hai riprotesti da martedì? Oggi è il primo giorno di una lunga serie. Di una lunga serie di proteste. Vabbè, di una lunga serie di proteste. Amico mio, tu allora, chiudi perché, ma ragazzi, bloccate alle tutto 4, però. Alle 4 piazze. Bloccate tutto. Bloccate il traffico. Aspetta, lì. Fermi, Natale. Capanna, Mario. Un momento. Le mie orecchie hanno sentito parlare di borse di pitone, ma non mi voglio soffermare su questo. Su una protesta straordinaria in atto nei pressi di Piazza Venezia. Prima di domani non riesco a raggiungervi dalla mia tenuta in Umbria, ma due o tre piccoli consigli ai compagni, ecco, alle compagne, dai un consiglio, che compagno stanno Francesco occupando. Allora, se siete in 40, cingete la piazza nei punti nevralgici, quelli di maggior scorrimento del traffico. Succederanno due cose: lì per lì gli automobilisti che rincasano dopo una durissima giornata di lavoro si incazzeranno neri, perché rimarranno meravigliosamente bloccati nel traffico per delle ore. Ma non è proprio bello questo, non è meraviglioso, un vero e proprio sequestro di persona. Non farà scattare quella solidarietà naturale che dovrebbe esserci tra lavoratori precari e lavoratori e partite IVA, questi miserabili che tornano a casa con le proprie piccole auto, abbandonano il centro e vanno verso la periferia. Voi bloccate tutto cingendo d'assedio questa piazza. Quando a un certo punto, qualora dovessero arrivare i poliziotti in tenuta antisommossa, potete disarcionare i cartelli stradali facilmente rompibili, diciamo, e usarli come scudo da lanciare contro la polizia al grido di via via la polizia. Sono specializzato in questo. Ma Francesco, è un ambulante. Bloccare la zona nevralgica della città, cioè la zona di Piazza Venezia, manderà in tilt tutto il sistema della città. Deve una cosa meravigliosa, formidabile. Quegli anni. Va bene, Francesco, hai sentito i consigli di Capanna? Senti, dunque, davvero, da oggi fino al 29, appunto, da oggi Roma fino al 29, sarà nostra. Roma sarà nostra. Ma no, ma come Roma sarà vostra? Questo Roma sarà nostra, lo sciopero noi lo chiamavamo negli anni 70. Sai come si chiama? Sciopero, 29. Sciopero a gatto selvaggio si chiama, perché se siete in pochi dovete individuare su una mappa le zone nevralgiche. Siamo 500 te lo spiego io, guarda, con fratello compagno. Furgoni, no, il ma bravissimo. Saremo 5.000. Ma dovete diffondervi. Furgoni, sì, ma lo dico io, amico mio. Aspetta, te lo dico io, amico mio. Aspetta, aspetta. Che voglia il referendum? Gli ambulanti, te lo dico io, gli ambulanti che votano tutti. No, tutta la vita. Che cazzo c'entra gli ambulanti? La protesta degli ambulanti con no. Cosa c'entra? Mi fai incazzare. C'entra niente. Questo è il bidone. Adesso, quanto costa? Scusami, mi dai una forchetta un attimo. Quanto costa la borsa di bidone? Quanto può costare? Al negozio 1.100 da me 600. No, ma dico, può partire da 600 fino a? Dipende dal cliente. Se vieni tu costa un po' di più. Dacci due. Ciao Francesco, ciao. Marina da Verona, vai Marina. Qua vai. Io, pronto. Dimmi. È il dottor Cruciani? Sì, è amico mio, dottore, ecco, sono Giuseppe Cruciani, dai. Non mi offendere. Allora io volevo rendere noto una cosa, sì. Che non sì. Solo l'ho sentito stamattina sulla vostra radio. Ma cosa hai sentito? Cosa? Qui non, noi non sentiamo niente, qui sente solo la zanzara, le altre emissioni non contano. No, adesso lo so. Ne ho altre due o tre amiche che hanno i figli che fanno l'Erasmus, fuori. Vabbè, ma questo è tutta derelato, tutta la roba che ti hanno riferito, eccetera. Sì. Che ti hanno riferito? Hanno già ricevuto la scheda per votare, sì, sì. Poi? E c'è già scritto sì dappertutto. No, questo è brutto. Questo no, è ma brutto, che vuol dire? Questo è brutto. Questo è, cioè, hanno già ricevuto delle schede prestampate con scritto sì. Sì, ma... signore, sì, glielo signore. Volevo dire. Vabbè, ma non facciamo delazioni inutili su. Voglio rendere pubblico questo. E rendiamo pubblico questa cosa. E cosa vota lei? Lega Nord per l'indipendenza della Padania? Vabbè, che adesso, ma no, no, ma io no. Sono di Verona, non sono della Padania. Beh, Verona, ma lei vota sì. Io parlo da Verona. Lei che vota, sì o no? Io voto no. Ci mancherebbe. Ma se potessi voto no anche coi piedi. Pure ecco, coi piedi? Quindi lei è leggermente di parte allora, mi pare. Allora, lei ci sta dicendo che alcuni suoi conoscenti in Olanda hanno ricevuto delle schede elettorali. Non solo in Olanda, ma sarà della pubblicità elettorale. Sono là che fanno l'Erasmus, hanno ricevuto. Ma è pubblicità, non saranno le schede elettorali vere e proprie. No, dai. Le hanno mandato la scheda per votare. Ma quando mai? Allora, hanno ricevuto la scheda e c'è scritto sì. Signora mia, avranno, mi pare che ci sia un livello di stordimento totale anche tra i suoi parenti in Olanda. Lo dico con rispetto. Penso proprio di no. Lei ha bevuto? Proprio di sì. Lei ha bevuto, signora, stasera? Lei ha bevuto? No, caro, è lei che beve. Io non bevo mai. Beh, lei qualcosa e beve, forse signora. Sarà il suo amico che beve, quello lì vicino, Padovano. Padovano, che, però che, è poco, che è poco simpatico, anche se sono di Verona. Sì, certo. Signora, ecco, faccia così, ci sì, manda, ma lui ci no. Mandi, signora mia bella, ci mandi per cortesia una foto di questa cosa che lei ci documenta in diretta. Ci io mandi una foto al numero niente, della zanzara. Glielo detto, e allora vada quel stata in linea anche e allora troppo. Vada a quel paese. Ma anche glielo dico troppo. Con serenità. Beh, ci vada anche lei. Vada allora. A quel paese. Così le ho chiesto con gentilezza di documentare quanto da lei denunziato. Ti ha mandato a fare il culo in maniera molto gentile, sì, la signora Marina. Sì. Io ho altre tante sì. Cose da sì. Fare. Che c'ha da fare stasera? Cosa nulla. Ha da fare lei stasera? Ma cosa più da fare stasera? In televisione. Ma che ha da fare stasera? Anche alla radio. Ma ha sentito? Che ha sentito? Ha sentito un cazzo lei? Ho ma... sentito sì stamattina proprio. Lei che cosa ha da fare stasera? Dice io ho molto da fare. Cosa ha da fare stasera? Ha tante cose io ma da cosa fare. Ha da fare ma stasera? Non deve fare. Ma io sono una persona che lavora. Non ma sono che lavora? Ma lei è in pensione. Non volevo, non ha mai lavorato in vita sua. Ma volevo rendere noto. Ma che la questura? Cioè... non ho tempo da perdere. Ma lei non ha mai fatto niente in vita sua. Questo è il problema. Cioè... io ho lavorato. Ma dove? Ho lavorato più di lei. Ma dove ha lavorato? Ho lavorato. Dove? Io ho fatto la bancaria per una vita. Appunto. È lei che non ha fatto un cazzo. Non mi tornava. Ma che linguaggio è, non signora? Non mi tornava mia? La cosa. Ho fatto la bancaria, amico mio, i bancari. Fammi stare zitto sui bancari. Sto ascoltando la zanzara e quindi sono posseduto dal diavolo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Gamma Suzuki 4x4 All Grip a partire da 13.900 euro. Suzuki. La Zanzara. La Io non piscio nel lavandino, ma solo nel water. Mi cambio i calzini e le mutande ogni giorno, mi faccio la doccia ogni giorno e la notte dormo con un pigiama pulito. E faccio parte di quella maggioranza pulita e silenziosa che ritiene Parenzo un coglione, un lecchino. No, questo non va bene, ragazzi, questo non va bene. Chi è questo? Questo non va bene, questo è un signore, adesso non lo denunziare, non lo denunziare. No, non lo denunciare, questo fa parte, non fa parte della maggioranza silenziosa. Questo è un infiltrato nella maggioranza silenziosa per creare zizzania, ma è evidentemente un miserabile, uno che va a prostitute nonostante abbia la moglie, insomma, è un personaggio così. L'urlo, l'urlo, non resisto senza l'urlo di Benson. Fermo! Ma che è successo? Oh. Fermo! Ma che è successo? Oh, madonna! Si racconta che Richard Benson, famoso chitarrista degli anni Ottanta, abbia tentato il suicidio e si sia ridotto in quel modo. È rimasto comunque una leggenda. Non lo toccate, non lo trattate male. Sì, Benson, va bene, dai. 3.000 euro al mese, sì. Per fare questi cazzo di urli e per fumare 3 pacchetti di sigaretta al giorno. Ma certo, certo, te le do tutti io, vai. Vi prego, vi prego. Voglio diventare come Richard Benson. Vi prego, vi prego. Sono un artigiano. Fate una raccolta fondi anche per me. Affanculo Richard Benson. A Cruciani, addia quel coglione di Richard Benson di sto cazzo di andare a lavorare. Vai a lavorare, coglione! Cruciani, io ho appena versato 10 euro per Richard Benson e ti dico questo: meglio 10 euro a Richard Benson che ai terremotati. Vabbè, questo no, questo è troppo. Però vedi, i pareri sono discordanti sulla performance di ieri qui alla Zanzara del signor Richard Benson. Performance, il racconto, il racconto drammatico. Una persona senza denti che ha bisogno. Tre sigarette al giorno e che urla. Quella è la sua caratteristica principale. Maurizio, cardiopatico d'altra parte, sai. Cardiopatico e urla così. Maurizio, provincia di Milano, vai. Maurizio. Ciao. Dimmi. Oggi ero a Monaco. Monaco dove? Quale Monaco? Monaco di Baviera. Sì. E ho votato 5 volte sì. No, dai, ragazzi, però siamo seri. Adesso, questa qua è una cosa grave, quella che stai dicendo. Sono serio. Stai dicendo una cosa gravissima. Cioè, no, stai dicendo che hai votato 5 volte sì. Che vuol dire? Ho dei collaboratori a Monaco, sì. Ho dei collaboratori. Sì. E gli sono arrivate le schede per il voto. Sì. Ha detto, ma non sappiamo neanche cos'è che dobbiamo votare qua. Mm. Come io voglio votare sì, gli ho detto, ma mettiamo un sì, gli ho detto io. Vabbè, che c'entra questo? Vabbè, questo che vuol dire? Non vuol dire niente. Poi hanno firmato loro. Certo. Vabbè, ho capito. E allora dov'è il problema? Allora, no, tu stai dicendo che siccome a quelli non gliene fregava niente, no, però ci sta raccontando comunque una cosa interessante. Innanzitutto che le schede erano timbrate, perché la signora De Prima forse si confonde. Il problema vero è quando le schede spesso non sono timbrate, là possono essere manipolate. E se sono timbrate, cioè, non hanno il timbro dell'interno. Assolutamente non è vero che c'era già la croce sul sito. Ma no, ma quella non, quella no. Ma allora, quella Maurizio, la cosa fondamentale che ci sta dicendo Maurizio è un'altra. Lui ha dei collaboratori che sono evidentemente residenti a Monaco di Baviera. Sono arrivate le schede elettorali. Questi se ne sbattono le palle. Vabbè, se ne sbattono le palle. Non gliene frega niente. A lui invece che interessa, che dice: no, datemene a me le schede. Cioè, nel senso, compilatele, mettete sì. Esatto. Ma che c'entra? Ma scusami, anche a me mi ha chiamato mia cugina, che ad esempio vive a Gerusalemme. Dice: non so che fare, A Gerusalemme. Ma ha scritto: oh, cugi, ciao, mi sono arrivate le schede. Secondo te che bisogna fare? E tu gli hai detto: non me ne frega niente, decidi. Ma tu, guarda, fai tu, non è perché non ho seguito bene il dibattito, tu cosa faresti? No, io però lui sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo che no, ma è uguale, dai. Cioè, non c'è ha niente. Ha chiesto un consiglio a questo qui, a lui, gli hanno chiesto un consiglio. I tuoi dipendenti ti hanno chiesto, quelli che lavorano per te ti hanno chiesto. Però cosa dimostra sta roba? Non ho capito. Cosa dimostrerebbe? Niente. Maurizio, cosa dimostra sta roba? Nulla. Sì, ma comunque per farvi capire che la gente che è fuori non c'è niente di questo. Vabbè, perché invece quelli che stanno in Italia la sanno, secondo te, dai, è uguale, da quel punto di vista è uguale, dai, su. Stanno martellando tutti i giorni in televisione, dai, qualcosa abbiamo capito, insomma. Vabbè, ho capito. E poi volevo, volevo premettere che io ho sempre votato Berlusconi. Questa volta qui non capisco cosa c'entra lui con Grillini, con la minoranza PD. Cioè, hanno fatto una coalizione per il no, cioè tutta gente diversa che non c'entra. Sì, però allora diciamo la verità, questo è vero, anche dall'altra parte c'è un po' di differenza. Non è una coalizione elettorale quella che vota al referendum, cioè Brunetta e che cazzo ne so, Landini non saranno mai insieme, eppure votano tutti e due no. Vabbè, cioè quella è la coalizione contro Renzi, diciamo la verità. Tutti quelli che hanno i no di Renzi votano per il no. Poi c'è anche una parte di gente convinta che invece la riforma sia una porcheria, una roba brutta, una roba fatta male, quelli convinti da questo punto di vista che sia fatta male, però cosa che tiene insieme tutti quelli che votano per il no? È il fatto che non sopportano Renzi. Giuseppe da Pistoia, vai. Pronto? Sì. Ciao. Ciao. Io volevo dire soltanto questo. Parla, parla. Sì, parlo. Volevo dire soltanto questo. C'è un campo rom qui e tutti i residenti della zona hanno dovuto mettere nelle loro ville il filo spinato israeliano, che sicuramente la signora Parenzo conosce. Sì. Cosa stai dicendo? Stavo dicendo che per proteggerci dai rom che ci sono in questa zona, alcuni residenti che hanno le ville hanno dovuto mettere il filo spinato israeliano che il signor Parenzo sicuramente conosce. Filo spinato israeliano. Filo spinato si trova ovunque, non solo in Israele. Filo spinato israeliano, di cosa sta parlando? No. Ha fatto venire apposta da Israele. No, è quello fatto alla fine, al posto della punta c'è una specie di amo. Vabbè, filo spinato israeliano. Io non sapevo che esistesse filo spinato israeliano. Comunque, allora? Allora cosa vorresti dire con questa cosa? Non ho capito. Perché i furti sono aumentati in maniera esponenziale. Vabbè, ma è normale, la maggior parte dei rom rubano, ma non c'è dubbio su questo. Cioè, nessuno lo mette in dubbio, solamente Parenzo e pochi altri dicono di no. La maggior parte dei rom rubano. Purtroppo hanno tentato di integrarli anche qua. Dove c'è stato un tentativo? Sì, di integrarli. Com'è finita? Male, naturalmente. No, e purtroppo è la natura di queste persone. Mi piace dirlo. Non voglio parlare con Parenzo, è uguale, però purtroppo mi da contratto anche a me farebbe più piacere, garderebbe di più confrontarmi con delle persone intelligenti, invece devo purtroppo da contratto devo anche interloquire con lei, purtroppo da contratto, capito? Non vale una lira. Ma perché sei impazzito su questo? Sinucesso, non vale niente. Perché sei impazzito? Perché impazzito per l'improvviso. Molto bene. Allora, se la disturba mi rende felice e continuo a parlare. Perché ciò che lei. Guardi, questo mi rende felice. Ciò che la disturba mi rincuora. Sono felicissimo del fatto che ogni volta che parlo lei sta male. Sono felice. Perché non intervisti le persone di Padova, quelle che non la pensano come te? Vabbè, ma che c'entra questo adesso? Non c'entra niente. No, ma la cosa più bella, lei mi ha detto una cosa bellissima. Appena inizia la trasmissione, questo fa la pubblicità, mi candido. Ma non c'è nessuna pubblicità. Lei mi ha detto una cosa che mi rende felice. Quando parlo lei sta male, mi rende felice. Io sto male, io mando tutti però tu non sei esattamente di Pistoia, no, non sembra. Non sogni Pistoia, sono di Reggio Calabria. Bisogna stare attenti con Reggio Calabria. Quindi è venuto a Pistoia a rubare il lavoro ai pistoiesi? No, io come non direbbero... vengo a rubare il lavoro ai pistoiesi. Come direbbero Renale i leghisti? Che non sei altro, Renale. Che? L'espressione qual è, scusami? Te lo devo tradurre, non te lo traduco. No, traduci. Tradurre da qualcuno il reggino. Ma in Rom, quanti Rom ci sono da quelle parti, vicino a te? Non lo so, non li ho contati. Hanno rubato anche a casa tua? No, per fortuna ancora no. E se tu ti vengono a rubare dentro casa, che fai, signori Rom? Niente, che faccio? Chiamo il 113. Meno male. Faccio il cittadino onesto. Chiamo il 113, aspetto che arrivino le forze dell'ordine. Meno Ciao Giuseppe. Meno male. Ciao Giuseppe. Belli amici che hai, Cruce. Ma no, non è amico. Beh, ha detto ciao Giuseppe, buone cose, eccetera. Buone cose, un ascoltatore. Bella gente. No, complimenti. Allora, Giulia Innocenzi ci vuole colpire al cuore, ci vuole impressionare raccontandoci quello che avviene all'interno. Molto bello quel libro, eh? All'interno, che cos'è? Degli allevamenti intensivi. Scusami, negli allevamenti intensivi. Bravo. Sì. No, a me non mi colpisce. Beh, non a me molto. Non mi rattrista. Non mi fa venire il magone. Non mi fa venire il pensiero, beh, allora non devo mangiare la carne. No, cara Giulia. No, nonostante che tu racconti il fatto che i maiali, per esempio, si mangiavano la coda a vicenda, ma sono allevamenti intensivi. Può succedere di tutto, appunto, però perché sono bestie. Vietato dalla legge, infatti. Appunto perché sono bestie. No, ma si mangiano la coda a vicenda. Ma quello è vietato dalla essendo legge. Essendo bestie ed essendo messi in una. Ma non lo so, quando ci sono delle cose vietate. Gli stessi dicono che. Quando è vietato dalla legge. Gli tagliano la coda per intervengano, quello. Intervengano. Quando ci sono delle violazioni della legge, si intervenga. Altrimenti è normale che bestie messe tutte quante insieme, compresse, eccetera, facciano, si comportino da bestie. È normale. Cioè, non ci dice niente di particolare. Ci vuole impressionare dicendo che gli allevamenti intensivi fanno schifo. Benissimo. E allora vendete la carne solamente a 50 euro al chilo. Siete contenti? Siete contenti voi radical chic che volete mangiare le cose fighette? No, ma perché? Benissimo, la carne a 50 euro al chilo. Benissimo, questa è la conseguenza dell'eliminazione degli allevamenti intensivi. La carne a 50 euro al chilo. Ero in un allevamento di suini della Pianura Padana, un allevamento eccellente, faceva parte di uno dei consorzi più rinomati del nostro Made in Italy, e davanti a me questi maiali ammassati uno sopra l'altro, che erano talmente stretti e talmente appiccicati che per passare il tempo, i maiali sono animali molto intelligenti e curiosi, si mangiavano la codina uno con l'altro. Allora, Mauro Corona con noi, grande ritorno alla Zanzara, Corona, ciao Mauro. Grande. Ciao, buonasera. Come ciao, andiamo, ciao, come andiamo, ciao. Mauro? Benissimo. Dove ti trovi, su per le montagne? Sì, sono su in una baita. Meraviglia. Una baita, beato amico lui. Mio. Beh, quindi... ascolto la radio a pile. Ottimo. La radio con le pile, beh sì. Con la pile, non c'ho corrente. Ma si consuma ogni tanto, sì, naturalmente. Sì, ma le sostituisco. Quando andiamo a fare una bella arrampicata, fratello mio? Ma se dura sto caldo anche sti giorni, perché fa caldo e non c'è neve. Fare una bella arrampicata con te, guarda, il mio sogno. Quando anziché vuoi. Star no, qua adesso, perché mi dovete fare i cazzi vostri? No, vabbè, glielo dicevo, un amico. Vabbè, andiamo avanti. È incredibile. Andiamo avanti. Volevo capire da te, caro Mauro, innanzitutto quante volte ti cambiavi i calzini? Un argomento che è tornato d'attualità con alcuni racconti miei qui alla Zanzara. La gente si è stupita del fatto che io ho detto io posso tenermi i calzini tranquillamente anche 3-4 giorni. Per esempio adesso credo di avere un calzino bucato. Per l'esattezza. Ma... stamattina dovevo decidere se cambiarlo o no, caro Parenzo. Ho visto, era da due giorni che ce l'avevo, questo calzino nero. C'era un piccolo buchetto davanti. Beh, ma alla fine manco ho detto, ma che si vede sto buco? No? E allora perché devo cambiarmi i calzini? C'è una fatica a scegliere il colore, le cose. Che schifo. Ho odorato, non c'era puzza, non c'era nulla. Che calzino, schifo. Piccolo calzino bucato con un piccolissimo buco in punta. Uno schifo. Mauro, tu quante volte ti cambi i calzini? Ma abbiamo già toccato questo argomento. Ritocchiamolo. Quando io ho detto quello che dirò tra poco, addirittura la Littizzetto disse che forse non avevo più calzini ma un paio di stivaletti. La battuta era anche bella. Sì. Io ho una biologia fisica che non sudo e quindi mi cambio sì, i calzini. Sì, questo anch'io. Ma veramente, però mi cambio quelli scettici che hanno qualcosa da dire, fanno l'esame su di loro. Certo. Che loro odorano male e quindi non tollerano che qualcuno, per una fortuna biologica, non odori male. Allora, la notizia quindi, è questa: Mauro Corona non suda praticamente. No, e non quindi me li posso questo, tenere anche 20 giorni. Questo calzini, anch'io non chi sudo. Chi non ci crede, venga lì. Questo è buono. Questo è buono. Ecco, il problema è che fanno, ma ha ragione Corona, fanno l'esame su se stessi. Però bisogna cambiarsi i calzini lo stesso. Loro puzzano e non tollerano che un altro. No, io dico, io reputo veramente disdicevole chi suda, proprio volgare. No, ma scusami, Davide, però abbi pazienza. Tu adesso non puoi cambiare, non puoi cambiare spartito solo perché Corona dice che può tenere i calzini anche per 20 giorni. Ho detto, Corona fa il montanaro. Allora devo dare ragione a quell'ascoltatore di prima. Io dico una cosa, ha ragione. Se lui non suda, e decide. Ma che vuol dire? Sempre una zozzeria secondo i tuoi canoni. Sicuramente una zozzeria, però almeno non suda. Cioè, non l'aggravare. No, quindi non ho necessità di cambiare i calzini. Però comunque, fratello mio, metto cattivo odore, me li cambierei ecco, anche tre volte. Però questo ti voglio dire. Allora, io capisco già il fatto che lui non sudi è un buono step, è una buona cosa. Io nonostante, io ti dico ad esempio, io non sudo e mi cambio ogni giorno calzini, mutande, camicie, eccetera. Ma perché tu hai la moglie che ti rompe i coglioni e fai il fighe. Se non hai odore, perché ti cambi? Perché te lo dice lei che sei. Ma non mi dice niente. Una volta non ti cambiavi, io sono testimone. Una volta non è vero, quello non è vero. Sei sempre cambiato. Non diffondere cose non vere. Sei sempre cambiato, è vero. Non è vero. Allora, Mauro, facciamo un elenco. I calzini anche 20 giorni possono resistere. No, dai, 20 giorni non è possibile. A lui sì, 20 giorni, ma lascialo perdere, 20 giorni. Ragazzi, è propaganda, è una porcheria. Ma le mutande? No, quelle no, quelle 3-4. L'ho detto anche l'altra volta, ogni due giorni o tre mi tengo lavato quella zona lì, insomma. Ogni due giorni o tre. Però, ragazzi, mi sembra giusto tenere lavato quella zona lì. Possono resistere anche tre giorni. Possono resistere assolutamente, ma assolutamente anche tre. Anche tre giorni. Mamma. Se non c'è la strisciata, per tre giorni possono rimanere tranquillamente. Scusami, se non si nota la strisciata, la famosa strisciata. La strisciata bisogna correre ai rimedi. Per forza, se c'è la strisciata, uno oggettivamente gioco forza. Perché ogni tanto, per qualche ora, sentire la strisciata anche attaccata alla pelle, cioè quella senza. No, ma è vero, è così, ragazzi. È inutile negarcelo. Siamo gli uomini, non riesco a capire di cosa state parlando, non riesco a seguirvi. Non riesco a capire. È così, ogni tanto la strisciata attaccata alla pelle per qualche ora dà anche una sensazione di vita, che siamo vivi. Mauro, diglielo tu. Dà l'idea che fai schifo, non che sei in vita, fa schifo. Ma guardi, quelli che arricciano il naso, che fanno inorridiscono a queste nostre affermazioni, forse vorrei vederli per qualche attimo da soli, cosa combinano. Quindi è così. Guarda, insomma, siamo fatti di carne, siamo gli esseri umani che odorano peggio degli animali, perché se pensate, un camoscio non si lava mai e sa di mandorla. Beh, se noi non ci lavassimo mai, quelli che ci puntano il dito non sarebbero neanche avvicinabili a un chilometro. Ma sì, è così, dai, è così la realtà. Ma ragazzi, io anche quando non ero fidanzato mi lavavo ogni giorno, mica per la mia, ma per me, per la mia dignità, per quando giro, che non voglio che la gente, la dignità, lavarsi ogni mattina, anche, la dignità è altre cose. No, tenermi pulito, ha ragione, tenermi pulito, i depressi non si lavano. Mauro ha ragione, Mauro, scusa, invece la maglietta, quanto te la puoi tenere, una maglietta, una qualsiasi maglietta? Ah beh, anche un mese, anche quella. Anche un mese, una maglietta. A meno che non vada a camminare, sudare, arrampicare, allora sudo, la cambio. Beh, certo, altrimenti può però rimanere. Devo dire anche che non ho nessuno che mi sta vicino di notte o che subisca, diciamo, il mio non lavarmi. Ah, perché stai vado, da solo. Quando vado in pubblico sono bello pulito e profumato. Ma quando vai in pubblico cambia abitudini oppure sì, no? Sì, perché no, quando vado in pubblico, ad esempio l'altro giorno ero a Milano a Bus City e metto sempre in conto di fare un incidente con l'auto che guidano altri che io non guido più. Sì. E quindi se mi capitasse devono trovarmi pulito. Ah, solo per questo, solo per l'incidente? Anche per avvicinare la gente, ma non sono uno che si consuma la pelle e le ossa. Perché? Fermi tutti un attimo, poi torniamo con Mauro. Dio, patria e zanzara. La zanzara. La Mussolini e l'ibernazione. Sai, Parenzo, che adesso c'è questa, non dico nuova moda perché non è una nuova moda, però qualcuno si vorrebbe fare ibernare da morto per magari poi, no? Per magari poi resuscitare fra 100-200 anni. Senti la Mussolini, senti. Si deve curare vita e si deve aiutare la ricerca, non che ti berni come un sushi e non ti risvegli più che non c'è più nessuno, non c'hai più una famiglia. Ci saranno anche altri che si sono comunque. Ma quando mai? L'ibernazione come un sushi. Allora, salutatemi Mauro che era a Pistoia a mangiare. Ho letto quella storia, mi ha impressionato molto effettivamente la crioconservazione. La crioconservazione. Sì, l'ho letta l'altro giorno. Mi ha impressionato. Ognuno cerca di sopravvivere anche per 300 anni. Non credo che Mauro Corona sia di questa partita. Lui vorrebbe crepare il più presto possibile, no Mauro? Ma guardi, sì, quasi sì. E mi affiderò al caldo, non al freddo. Quindi mi faccio già disposto una cremazione veloce e senza suoni di trombe o clamori ho disposto dal notaio di dire dopo 3 giorni che sono scomparso, giusto agli amici, sì, gli amici più stretti. Sì, non ho capito, cioè hai già scritto dal notaio che cosa? Sì, sono andato dal notaio perché siccome... Ma quando sei andato? Quando sei andato? Ma saranno 3 anni fa. Per disporre che quando sarò morto il mio corpo venga cremato, disperso chi, dove vogliono, ma senza dire dopo 3 giorni dire agli amici guardate che non c'è più. Cioè non dare nessun annuncio, nessuna cosa? No, perché insomma dopo 3 giorni possono brindare i nemici alla mia morte, quindi... Vabbè, ma che nemici hai tu? Cioè, ce n'è, ma no, è povera gente invidiosa, quindi... Comunque, non è buono il mondo. Vabbè, non è buono il mondo. La guerra siamo noi, vediamo la guerra negli altri, ma basta che ti fermi a un semaforo, un secondo in più sei ucciso, bombardato, la guerra siamo noi. Sì, probabilmente. Senza perdoni, senza niente, siamo feroci, il mondo è bello e feroce. No, feroce libro è sicuro. Andrei Platonov. Com'è? Il mondo... Un bellissimo libro di Andrei Platonov, il mondo è bello e feroce. Bello, come la zanzara, bello e feroce, uguale. Cioè il mondo, sì. Noi siamo la riproduzione del mondo. Senti, ma mi dicono, Mauro era a Pistoia a mangiare con una straficona. No. Ero a Firenze. Chi? Ero a Firenze. Ma quello è il puzzo, non lo sente? Ero a Firenze con Graziano Cioni che hanno fatto questa... No, però scusami, le donne che ti si avvicinano, qualcuna ti si avvicinerà, sì. Tu sei praticamente un eremita, ma qualche donna ti si avvicinerà, no? Sì, ma non sente odori, mica. Ho detto che quando vado in pubblico mi lavo, mi sistemo, mi profumo. Per cui da quel punto di vista non c'è... Poi tanto tu ormai con le donne è un discorso finito, chiuso, morto, finito. Ma hanno creato solo problemi. Preferisco 66 anni, non hai preferisco... più ambizioni sessuali? Preferisco amare che essere amato, sì, guarda, non ho più... Ma hanno creato troppo casini, troppe storie, preferisco non ha più pulsioni fermo. Sessuali. Ma pulsioni sessuali ce n'è ancora? No, perché ti... Ma sì che ce n'ho qualche volta, non più come a 30 anni. Ma che fai? Ma... Masturbazione la pratichi? Beh, ma no, ti frega? Sì, beh, qualche volta sì, ma non soventi. Cioè una volta al mese, che è? Una volta al mese? Sì, una volta, anche due, dai. Due pugnette al mese. Me ne due. Ma due ti frega? Ma vabbè, ma è una statistica. Ma quello è uno scrittore, ma è una statistica. Ma perché c'è dei intellettuali non si fanno le pugnette? Non ho capito. Ho capito, ma... Io spero di non essere il solo su 7 miliardi di persone. Appunto. Se interroghiamo gli altri, sono rimasto io solo a fare questa pratica. No, tu hai detto due pugnette al mese le fai, due pugnette sì, al mese. Sì, ho detto pure. E non ho capito, i rapporti sessuali veri e propri quanti all'anno? Diciamo nessuno, dai. No, dai, dammi una cifra. No, cioè. Che vado a toccare. Tocca. Vabbè, facciamo all'anno, mi chiede. All'anno. Diciamo 24. Cioè, ma allora, cazzo, 24, ma trombi ancora comunque. A voglia. Trombi comunque ancora, ma 24 con la stessa persona oppure con persone diverse? No, diverse. Che ti frega, diverse persone. Vabbè, ragazzi, trombi, ormai... Ormai con la stessa persona non si può più, diciamo, lo stimolo non c'è più. Prostitute? Prostitute? No, quello. Ma figurati. Trans? Neanche. Perché? Il problema alla mia età, il problema delle prostitute, no, perché costa più il Cialis e il Viagra che la prostituta, quindi io non posso permettermi tutte queste spese, tutto insieme, diciamo tu. E naturalmente Cialis e Viagra fai uso, naturalmente, no? Come no, se no non farei neanche. Se no, non quelle, si fa un quelle, cazzo. Questo pure è interessante. Quelle rare prestazioni ecco. Senza Vialis, senza Cialis, Vialis. Senza Cialis. Ho fatto una crasi, come si esatto, dice, senso esatto. Tecnico, no? Cialis e Viagra. Vabbè, senti, torniamo. Ma perché vi dovete aiutare con queste cose? Ma è normale, scusami, parece. No, è normale, assolutamente normale. Io, per esempio, le faccio pochissimo uso, qualche volta ho fatto uso, ma è normale che uno si. Beh, no, normale. Prima no, o poi toccherà anche a te. Prima o poi toccherà anche ai 40 anni. Poi toccherà no, anche a te. No, non mi catturate, ragazzi. No, ma toccherà anche a te usare Viagra. Ma non c'è niente di strano. Ma perché? Ma lo vedi come un peccato? Mi stupisce questa cosa. Un peccato assolutamente. Ma non i ragazzi, anche lo usano i ragazzi. Capito? Questo non è buono che lo usino i ragazzi. Ma perché toglie loro freni inibitori un po'. Oggi le donne sono molto forti, lo sono sempre state, quindi i ragazzi di oggi hanno un po' di paura e quindi usano anche loro. Sentivo un medico che mi diceva che lo usano molto. Ma che male c'è? Ma nessuno. È un problema economico. Che un ragazzo lo usi. Un ragazzo lo usi, ha ragione Mauro Coro, è uno spaccato drammatico che un Senti, ragazzo Mauro, hai visto che Toscani è stato assolto dalla vicenda dei Veneti Ubriaconi, no? Sì, ma del resto come potete poteva non essere, assolto, sì, certo. Ma i friulani da questo punto di vista che dicono? Sono i friulani, hanno avuto la stessa reazione con il grande Paolo Villaggio, che ha detto che sono tutti alcolizzati e hanno un cattivo fiato. Loro si sono... Bisogna prendere le cose anche con la giusta... Ho capito, ma è vero che è così, secondo te, che i friulani sono... tutti, ovviamente, non tutti, non lo so adesso se io... Ma tu sei friulano, lo puoi dire? Sì, cioè... sì, ma che con dici? Quelli che ho parlato io non ho sentito che gli pozzasse il fiato, però... alcolizzati che, sì. Che... Non tutti, c'è una parte che beve, una parte che astemia, una parte morigerata. Come però, dappertutto. Il problema è che chi si sente offeso, allora vuol dire che si è toccati sul viso. Facciamoci una risata di fronte a queste cose. Ma tu, per esempio, no? Che sei una grande amante della natura, degli animali, eccetera, eccetera. Ma da questo punto di vista, sai che c'è una nuova tendenza che è l'ecosessualità, no? Cioè, praticamente fare l'amore con le piante. Tu sei uno però di vecchio stampo, non sei con arrivato. Con le piante? Sì, con le piante, con gli alberi, cose di questo. Sapevo di pastori che facevano con gli animali, ma con le piante. Ma non credo che tu sia arrivato agli animali, amico mio. No, no, ma sei il bellissimo libro di Gavino Ledda, Padre Padrone. Che certo, che... Gavino Ledda, grandissimo, storia del pastore. Senti, Mauro, ma che voterai al referendum? Ma guardi, se mi date che guardi, secondi, non mi dare del lei che mi... Beh, è rispettoso. Mi date qualche mezzo minuto, dico, sì. Camus diceva, cos'è un ribelle? È un uomo che dice no. E Chamfort disse... Sapete perché gli uomini sono quasi tutti schiavi? Perché non hanno coraggio di pronunciare la parola no. Poi c'è anche la storia di Bartleby, lo scrivano, che gli chiedevano, mi deve redigere sto contratto? Preferisco di no. Quindi io voto no perché sono un ribelle. E perché non me la contano questi signori che dicono se non si vota sì le cose... peggioreranno. Per cambiare, ma per cambiare come? Per cambiare in peggio. Perché bisogna vedere... Quindi io voterai no. Se fossi, certo, ma non solo sul, anche se fossi un... Se ma perché ti sta sui coglioni Renzi? Ti sta sui coglioni Renzi? No, Renzi. No, Renzi è venuto anche da noi, da me, su a Longarone, quindi e l'ho anche votato alle primarie. Pare che io ho sempre votato sì. Però ti sta sui... Non mi va questa faccenda, questa finta legge per migliorare che invece si peggiora. Qui se vince il sì, il popolo bue, poverino, il popolo normale non ha più nessun potere. Bah, questo non credo. Questo non credo. Proporrei il voto, ma io lo credo. E proporresti? Proporrei il no anche sull'altare. Cioè? Quando uno va a sposarsi, no? Ma dice, lei vuole prendere il qui presente sposo o sposa? No, no, dovrebbe dire. Allora il prete dirà, o il sindaco, ma allora che è venuto a fare appunto. Qui? A dire no. Ma perché? Ragazzi che vi state sposando in tutta Italia, seguite il consiglio di Corona, fate una grande sorpresa quando arrivate lì sull'altare. Bellissimo. Senza dire nulla, altare oppure davanti al comune, senza dire nulla prima, dite no e allora tutti quanti si gireranno e diranno scusa ma che sei venuto a fare fino a qua adesso, appunto per dire no. Cioè, appunto per bellissimo, dire no. Bellissimo. Ciao Mauro, ti abbraccio. Ciao, notte, ciao. Ragazzi. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ah, Paolo Torino, vai. Ah, buongiorno. Oh, c'è uno scandalo che riguarda Rocco Siffredi. Pare che in un ristorante in Italia sia a un certo punto entrato in un bagno e abbia iniziato a scopare con due amichette, urla disumane provenienti dal bagno e sia stato cacciato praticamente dal ristorante. Beh, giusto. Lui smentisce, naturalmente, dice che è tutta una cosa falsa. Un complotto, eccetera, una montatura, eccetera. Un grande caso, un grande complotto, una grande storia, grande inchiesta di cui ci occuperemo nelle prossime ore. È una stupidaggine. È vero o no che Rocco Siffredi scopava in bagno con due amichette, tanto da essere stato cacciato dallo stesso ristorante? Punto interrogativo. E torniamo con Paolo da Torino. Vai, Paolo. Paolo da Torino. Dimmi, Paolo. Voce forte, chiara e soprattutto dici qualcosa di serio, di importante, non ci fare ammosciare i coglioni, come si dice. Assolutamente. No? Ecco. Prima di tutto, per non farvi ammosciare i coglioni. Ecco, già ce l'hai fatta ammosciare, però. Dimmi. Ecco, e volevo dire che, come quello che ho dettato, no, non si sente. Giovanni da Torino, dai. Basta, è eliminato. Giovanni, via. Eliminiamo subito. Via. Tagliato. Giovanni. Allora, Posso parlare, ok? Dimmi, dunque, Giovanni, prima dimmi. Di tutto, allora io voto sì e uso, ma chi se ne frega, per adesso non è che... i piedi, metto il bicarbonato nelle scarpe. No, bicarbonato perché nelle cose scarpe. Corona non le sa, per cui vota no. È ma che vuol dire bicarbonato nelle scarpe? Metti, scusi, tu alla sera, quando togli la scarpa, metti mezzo cucchiaino di bicarbonato nella scarpa e così non ti puzza più i piedi, capito? Ma sono cose che bisogna sapere, se uno non le sa, alla fine... vota no, invece io voto sì convinto, metto il bicarbonato nelle scarpe e se vuoi ti dico pure perché voto sì. Ma no, ma quello non mi non interessa. Ho capito il legame tra le scarpe e il bicarbonato nelle scarpe per non far puzzare le scarpe praticamente. E certo, lo fa puzzare i piedi, le scarpe e i piedi logicamente, hai capito? Ma io non lo so, bicarbonato. Ma prova, ma vabbè, ma bicarbonato, sì, d'accordo, non mi sembra una cosa così geniale, così rivoluzionaria. No, è geniale sì, invece, perché io le scarpe, quelle da ginnastica, io dopo una settimana le butto, invece col bicarbonato le uso pure anni, non puzzano più. Però ragazzi, sono problemi questi, cioè voi che sudate, sudare che sudate, è brutto. No, io non sudo mai, ho la fortuna di non sudare. Giovanni, fermi tutti, pubblicità, fermi. Cruciani, sei un miserabile, un gretto. Morirai da solo. La Zanzara. Hey Joe, get up and go. Wouldn't like to tell it twice. Parenzo, riprendiamoci Padova. Chiamami che sono disponibile per qualsiasi cosa. Chiamami che volantiniamo tutto, la cella, la guizza, tutti li volantiniamo. Dai, chiamami. Sono qua. Dai! Parenzo, sono proprio curioso di cosa farai con tutte le puttane che ci sono a Padova. Mi dai una risposta? Grazie, ciao! Ho già avviato le pratiche per prendere la residenza a Padova. Dai, Parenzo, l'Italia silenziosa è con te. Io voto Parenzo, sindaco di Padova. Almeno ci liberiamo degli immigrati, se li porta tutti a casa, lì a Padova. Fa un bel mucchio e via! Grande ragazzi! Ma Parenzo, mettiamo che riesci a diventare sindaco di Padova, molti clienti e nessun cliente va più a puttane. Ti ritrovi col problema di tante ragazze disoccupate che non hanno più lavoro, nessuna entrata. Come pensi di risolvere questo problema? Padovani, preparate le barricate contro gli immigrati e soprattutto contro Parenzo. Se nella tua mente c'è bufera, segui Bitonci e sarà primavera. Parenzo. Il problema della zanzara, Yale traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. Ritorna il peggio di Radio Padania, anzi Radio Calabria. Non è ancora finita Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Stanno mandando a Remengo il Sole 24 Ore e facciamo anche le condoglianze a Radio 24, signori. Mi dice Cruciani che gli stanno abbassando lo stipendio, ogni giorno 10 euro in meno. Cruciani tra poco verrà a lavorare gratis a Radio Padania pur di avere un microfono acceso. A cazzaro, a deficiente. Cioè, non mi pare sia ma questa. Ma che ti ho detto? Non ti ho detto nulla di questo perché non ci ho mai parlato con te, Marino. Non dire cazzate. E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Ma questi si devono adeguare alle nostre abitudini, altrimenti fuori dai coglioni! Perché è business, caro Arruffapopolo. Noi siamo delle cacchette in loro confronto. Ripensamenti. Ancora Marin, se la Boldrini diventa premier. La Boldrini premier? Io scappo, faccio un collegamento da chissà quale posto, dall'Ungheria. Vado in Ungheria, Sammy Varin, se va su la Boldrini come premier, va in Ungheria. Padania non sarebbe una grande perdita, caro Parenzo, no, eh? Anzi, no, sarebbe da incentivare, non sarebbe una fuga di cervelli, cosiddetta, diciamo. Ancora Varinda, la gentaglia la incontri dal supermercato, l'africano ti insegue e fa pure, ragazzi. Però va bene, io lo sapete come la penso sull'immigrazione clandestina, ma non è vero che l'immigrato ti insegue al supermercato. Questa fandonia che viene detta succederà in alcuni casi, certamente sarà successo. Comunque, ma non è che in tutti i supermercati, bravo, italiani, no, esci, questa gente, e c'è un africano che sono, ti insegue. Questi sono, non dei è criminali. Vabbè, non questi di radio, dai, sono dei criminali. La notizia più imparata del giorno, e c'entra con quello che stiamo dicendo, sono i sopravvissuti della Sierra Leone. Vabbè, cioè, in Sierra Leone, adesso, per la prima volta ci sono state le vaccinazioni contro Ebola in Sierra, certo, in Sierra meglio, Leone. Allora, meglio Varin, meglio Varin, meglio Varin. In Sierra Leone, grazie alle vaccinazioni, ritorna c'entra la vita. Ma questo è il punto. Bisogna parlare di questo, non ma della che, Lega. Ma non tu della, di questo. È importantissimo il reportage tra i sopravvissuti della Sierra Leone. Facciamo uno speciale su questo, qualche minuto. Immigrati, vai. Siamo ridotti ad avere paura di questa gentaglia. E questa gentaglia la incroci, cazzo, quando vai al supermercato. Ti rincorre l'africano per avere il tuo carrello, per avere il tuo euro. E quell'africano fa paura. Ma non fa paura! Non è vero, non è così, dai! Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Queste sono le pernacchie che vi fanno i clandestini quando salite sul pullman e gli chiedete di non sputare per terra e gli chiedete di non pisciare di fianco a voi. Queste sono le pernacchie che vi fanno i clandestini fottendosene altamente perché sanno di avere dalla loro parte tutti quanti. Fai vedere quanto è bella la tua terra. Ah, ragazzi, Davide Firenze, vai, Davide. Tecnicamente Davide, pazzo questo. Davide tecnicamente Firenze, no, però a suo modo è un genio. Davide ma Firenze, a suo modo è un genio. Vai, Davide. Ma che dì, è pazzo, è pazzo. Dimmi, dimmi. Lui è pazzo. No, io, lui. Dimmi, lui. Davide. Ciao, Luciani. Vai. Sei un cavallone. T'ascolto da parecchio, sei fortissimo. Che vuol dire cavallone, tecnicamente? Cavallone vuol dire uno proprio forte, simpatico, sotto parecchi aspetti. Questo è di dove sei? Firenze, Cruciani, che sono un gran porco. Proprio l'opposto. Che hai detto? Sono un gran porco. Che hai detto? Sì, sei un perverso. Vabbè, comunque, sì, d'accordo, però adesso non esageriamo, vai. Sì, questo ora, è vero. C'ho l'eco, mi torna dimmi, dietro, parlo un po'. Dimmi. Ti volevo raccontare un aneddoto. Aspetta, curioso. Me lo racconti subito. Aspetta un attimo, fermo lì. C'è un grande ritorno alla Zanzara, Parenzo. Un grande ritorno. Devo tremare. Beh, amici miei, devo dire richiesto da molti ascoltatori, devo dire la verità, non mi posso sottrarre, devo confermare questa cosa qua. Molti ascoltatori ci hanno chiesto: ma quando ritorna alla Zanzara il cavaliere Auriemma? Oh mamma mia, Italia Morali. Oh mamma mia, Italia Morale, uno sgrammaticato proprio, proprio ontologicamente sgrammaticato. Ma Italia Morale non c'è più, tutto, è finita Italia Morale, ancora Italia c'è. Italia Morale. Eccola qua. Ma c'è ancora mai Italia Morale. Parola in italiano, esiste ancora. Ma che esiste? Vabbè, senti un attimo, cavaliere, ma Italia Morale come si schiera al referendum? Perché cavaliere poi? No. Che vuol dire no, non si schiera? No, cosa? Votiamo no, facciamo votare no. Italia Morale, ma questa non facciamo, non c'è nessuno con lei da solo, cavaliere, solo lei. Ecco, sta pure male, sta. Catorcio. Ma non è un catorcio, perché è un catorcio? Un catorcio, dai, un catorcio. Senta, allora, l'Italia Morale vota no al referendum, giusto? Vota no il referendum. Come mai? No. Come mai? C'è una motivazione di fondo? Perché c'è una... non ci piace Renzi. Ma perché ormai dice non ci piace? A lei non piace, lei è uno, il suo movimento, è lei da solo. No, guarda, sono 20.000 iscritti, vaccinato il cognome. 20.000 psicolabili. 20.000 psicolabili che avevano bisogno di una brava psicologa. Ma non esistono. Scusa un attimo, cavaliere, allora... vota no perché vi sta sui coglioni Renzi, questa è la sostanza. Perché mi sta sui coglioni Renzi, bravo. Beh, una motivazione così detta autorevole, così. Sta sui coglioni Renzi. Sì, ma perché ti sta sui coglioni Renzi, cavaliere? Perché mi è antipatica, è razzista. Renzi. Perché è razzista, spiegami. Questi sono gli effetti collaterali del voto a tutti, capito? Mi spieghi, cavaliere, spiegami perché è razzista Renzi, non ho capito. Perché Renzi lo comanda da solo, fa tutto da solo, pensa tutto da solo, l'Italia è sua, l'Italia non è sua. Come sua? Ah, ha, sì, comprato l'aereo, i soldi nostri italiani. Quale aereo? No, l'aereo di Stato. Salotti, si è messo i mignozzi, si è messo in puttana sull'aereo. Ma dove? Non è vero. Ma che dice? È diffamazione pura. Bella buona. Puttana, dato in America. Ma non è vero. Ma è, pura, è diffamazione pura questa. Ma quale diffamazione? La diffamazione non esiste, ragazzi. Non esiste la diffamazione, Renzo, sappiamo chi è Renzo, dai. Manco lo sappiamo cosa, cioè, non, chi, ha fatto, non è che ha comprato l'aereo per metterci le puttane. Senti come tossisce, sta male. Ma Renzo, questo, sappiamo, dai, non può tenere, Renzo, sappiamo tutti. Ma che perché dice? Non può diffamare le persone così gratis, t'amore dei. No, vabbè, no. È contento della vittoria di Trump? È la verità, ragazzi, è la verità. Quando, vabbè, la verità. Quando ho detto 5 Stelle, poi i 5 Stelle hanno messo le mani nella marmellata. Ma chi ha messo le mani nella marmellata? Però come parla questo? Io ti giuro, non lo sopporto. Dell'AMA, il direttore generale dell'AMA, ma l'ha sentito? Sì. Ma sentite i soldi che si è preso? Ma che c'entra questo? So, e come che c'entra? È tutta una famiglia, tutti i ladri, tutti i mariuoli sono. Ma chi? Ma che c'entra con Renzi? 5 Stelle, 5 Stelle. Ah, 5 posso Corrado. Dire che è, una, è passato con Raggi. È un adesso, pensiero di confuso, tutto sgrammaticato, allora, capisce niente. Confusa, andiamo in ordine, cavaliere, aspetta, andiamo in ordine. Trump, ecco, esatto. Trump, signor, sì, Tavo, lei è contento per la vittoria di Trump? Ma è contentissimo, ha copiato a me però, ragazzi, beh, ha copiato a me. Ma come ha copiato? Lei, tu guardi dei video, quelli che ho detti a voi, a lui l'ha copiato. Cioè, ma per c'è esempio Trump, questo è pazzo, delirio si chiama, c'è uno psicologo, uno psichiatra veramente. Cioè, spiegami, cavaliere, spiegami sta cosa che Mario ha fatto. Auriemma. Io vorrei che gli ascoltatori andassero su Google e googolassero il nome Mario Auriemma. Aspetta, per vedere chi è questo personaggio che parla un attimo nella radio di Confindustria. Mi fai un attimo, fammi spiegare da Mario Auriemma, da cavaliere, sì, Mario Auriemma, perché, com'è che lo chiami tu, com'è che si chiama il presidente americano? Non mi ricordo come si chiama, ha parlato proprio quello che ho detto io, straniero. No, ma come non ti ricordi come si chiama il nuovo presidente americano? Come si chiama? Bravo. Come si chiama? Donald? Donald Trump. Donald? Ma io, Michael, uno più ignorante di questo non l'ho mai conosciuto io. E ride pure. Ma quale ignorante? Io sono professore all'università, ma figurati che ignorante. Mia, che come si chiama il presidente americano? Donald Trump, lì, ma che Trump? Quello dove si dovrebbe attaccare lei, il Trump? Si attacca al Trump. Lei non ho capito, avrebbe preso ispirazione. Quattro volte, ha fatto bancarotta quattro volte, il presidente americano. Quattro volte, beh, che ha fallito, bancarotta. Ma che c'entra questo? Ma chi è bancarotta? No, Trump, dice. Però ha fatto bancarotta. E si è ispirato a te, si è ispirato Trump? Sì, esatto, ha copiato a me. Quello ho intervisto a voi a Zanzara, l'ha copiato tutto lui. Adesso questo non credo, oggettivamente questo non credo. Si è ispirato per che cosa? Per il fatto degli immigrati, su che cosa? I immigrati, i froci, i mignotti, tutto l'ha copiato. Ma tu le volevi portare a Pomezia, i immigrati, i froci, i mignotti? Brava. Adesso porta a Pomezia, a Civita Vecchia, porte a i trentieri che fanno sciopero. Ma allora, a Pomezia che cosa ci va? I mignotti? I mignotti, i froci... E i trans. Invece a Civitavecchia, dall'altra parte, nord. I tranvieri. Ah, perché c'è lo sciopero dell'ATAC, i tranvieri dell'ATAC. Bravo, ci vanno i tranvieri che vanno. E che facciamo? Li deportiamo tutti, sti tranvieri dell'ATAC? A Civitavecchia e a Pomezia, tutti e due. Ma che vanno a fare a Civitavecchia, scusa? Perché c'è il sindaco 5 Stelle. Ah, andassero a 5 Stelle là. Ma scusa, ma non ho capito, ma la Raggi come ti sembra? Che bilancio fai? La Raggi, meglio va a casa, la Raggi non capisce niente. Non capisce niente. Perché non capisce niente? Manca una donna sessuale, la vedi quanto cammina? Manca una donna sessuale. Che vuol dire una donna sessuale? Scusa. Non gli manca sessuale l'Arancia, visto? Cammina. Ma posso sapere lei che tipo di studi ha fatto? Che lei? Vuol dire una donna sessuale? Ma lei ha fatto qualche studio? Proprio che ha fatto lei? Senti, vai, gli immigrati, chiudiamo sugli immigrati. Continua cavaliere a commettere delle violenze, allora, alla lingua italiana. Aspetta, cioè una cosa ci sono in tutta Italia delle ribellioni contro gli immigrati. Lei ha saputo che gli immigrati vanno a casa loro, forse immigrati. A casa loro, ma a casa in che modo? Tutto a casa loro. Come? Ma in che modo? Dire? Al loro paese loro. Chi arriva è tutto al paese loro. Hanno mandato al paese loro. Hanno dovuto una soluzione tutti, intelligente. Tutti chiuso dentro. Ma chiuso chi? Cosa chiuso? Il suo cervello è chiuso. Gli stranieri. A Pomezia. No, bisogna distinguere tra Pomezia e rimandiamo a casa loro. Scegliamo. O Pomezia. Pomezia uguale. Pomezia lì è periferia di Roma. E chiudiamo dentro un cancello e restiamo lì. Ma no, ma sono troppi per chiudere. Cancello, esattamente, di cosa si è occupato? 20.000, 30.000, ma siamo lì, il terreno c'è a Pomezia. Io non ho mai capito di cosa si è occupato il cavaliere Auriemma. Ma è stato pure il presidente dell'Avellino, Esatto. Poi c'è presidente, presidente del Ciro Vecchio, presidente del Pomezzo. Ma c'ha due coglioni così, cioè non è che... Sinora, ma che stai scherzando? Io mi sono mangiato un capitano, Ecco appunto, beh, appunto, quindi è un cretino, francamente. No, un cretino non può essere, no. Totale, mangiato un capitale. Comunque, comunque Trump ha preso esempio da Cavaliere Auriemma, quello mi sembra. Donald Trump. Trump ha copiato a me, il presidente degli Stati Uniti ha copiato tutto quello che ho detto. È probabile, sì. Probabile, molto probabile. Ma la verità, io ho mandato un telegramma, ci ho mandato. A chi ha mandato? Ci ho mandato il video quando parlavo con voi, ci ho mandato a Trump, ho mandato il video, ci ho mandato. Ma che video ha mandato? Dove l'hai mandato? Ma dove, a che indirizzo l'ha mandato? A Casa Bianca, dove mandato? Ma non ci può stare ancora la Casa Bianca, alla Trump Tower doveva mandarlo, non la Casa Bianca. La posta la riceve lui, la posta la riceve. Ciao, la riceve? Ciao cavaliere, a presto, cavaliere, ciao, a presto, ciao. Allora, aspetta un attimo, che devi fare? Di 5 stelle, hanno messo in mano in da marmellata. I soldi, hanno preso i soldi pure loro. Ma no, si sono, si può dire. Ciao, cavaliere, ciao, cavaliere, ciao, ciao. Ciao, ciao. La zanzara è una punizione divina. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Gamma Suzuki 4x4 All Grip, a partire da 13.900 euro. Suzuki. La zanzara. Allora, eravamo con Davide da Firenze, vai. Pronto? Sì, Davide, dimmi. Ciao, Cruciani. Vai. Volevo parlare della legalizzazione della prostituzione. Cioè, in che senso? Dimmi. Cioè, ci sono certi aspetti che forse molte persone non conoscono. Tipo, l'altro giorno ha chiamato un signore, dice che, ti ricordi, gli è morta la moglie . E lui non se la sente più di avere esperienze con altre donne e quindi va alla prostituzione. Il caso mio, io volevo raccontare di... Molti anni fa stavo con una ragazza, questa ragazza faceva assistenza domiciliare alle persone, ai disabili. Sì. Questa persona era un disabile totalmente, cioè lui paralizzato praticamente con la testa, però diciamo non si muoveva, non era totalmente paralizzato, sulla sedia a rotelle. Paralizzato. Ecco, però lì si rizzava. Sì. E quindi noi abbiamo installato un'amicizia con questa persona. E praticamente è venuto fuori che il suo grande desiderio era avere un rapporto con una donna. Quindi io con questa mia fidanzata, a suo tempo stavo con questa ragazza, e si è detto, ma come si può fare? Come si può fare? Potevi farci io... andare la tua fidanzata? E col cazzo, quella la trombavo io, scusa. Sì, questo pure è vero. Questo è vero. Però, insomma, anche bene la trombavo. Fine questo. Per generosità. Fine anche questo per signore. Sta raccontando una storia. Lasciagli raccontare una storia tranquillamente. Parenzo, non rompere i coglioni, Parenzo. Eccolo qua. Allora, il fiorentino gentile. La lingua di Dante. Guarda come. Allora, vabbè, Davide, allora. Torniamo sui binari giusti. Allora, tu stavi con la tua fidanzata. Avete ascoltato questa storia, eccetera. Invece di offrirgli la tua signora, hai pensato a che cosa? Allora, ho pensato di andare in strada a prendere una prostituta e portarla a casa. Ottima idea, Parenzo ti avrebbe punito severamente, sicuro, multa, mandata a casa. Multato. No, Parenzo è una gran fava, perché lui si deve mettere nei panni di questa persona disabile. Fava, e di quanto io gli abbia infatti fatto... su questo io gli do ragione. Su questo gli do ragione, perché ci sono persone che non potrebbero incontrare donne se non pagando. Appunto. Allora, mi dà ragione Parenzo? Su questo sì, ha ragione, perché non è un miserabile, una persona che ha bisogno di avere dei rapporti, e quindi allora lo vedi che c'è l'eccezione, fatemi dire. Però bisogna sempre verificare che non ci sia lo sfruttamento. Ecco perché nella città da me governata, cioè Padova, noi apriremo delle case chiuse dove le ragazze non saranno sfruttate, saranno solo volontarie. Non ci sarà il magnaccia che sfrutta il corpo della donna. Intanto fammi finire il racconto di Davide, dopo il tuo programma elettorale su Padova. Allora, non ho capito. Praticamente io all'inizio andavo a parlare con queste prostitute che logicamente non accettavano, perché non volevano andare con l'handicappato. Io non gli dicevo subito che questa persona aveva dei problemi, cioè che era un disabile. Io andavo semplicemente a dirgli se lei era disposta a venire a casa, perché avevo un amico. Lei però, come tutte, si metteva in testa che io volessi fare un qualcosa di perverso. Vabbè, insomma, alla fine l'hai trovato o no? Allora poi alla fine io gli dicevo che avevo un fratello, che mio fratello era un disabile, quindi molti si commuovevano a compassione e accettavano, anche perché logicamente il compenso era maggiore. Quanto gliene portate? Ah, compenso maggiore pure, sfruttamento del certo, disabile. Perché loro dovevano andare mazzetta, a casa tu. Invece... Hai preso la mazzetta tu? No, assolutamente, io portavo la ragazza a questo mio amico. Ah, hai preso la mazzetta, e lui, dai, hai fatto, si è fatto. E mentre lui stava con questa ragazza, io mi trombavo la mia di ragazza. Vabbè, questo in contemporanea? Certo, lui stava un'oretta in camera, io che dovevo fare, scusa. Vabbè, ma sei un perverso, un maniaco sessuale sei. No, mi scrive mio cugino, noto manager di un'azienda che non posso dire. Sì. Mi dice, ma è Renzi questo? Perché dalla voce sembrava identico. Vabbè, Davide, allora, quante prostitute hai procacciato questo tuo Cruciani, amico? Lo sai da dove sto chiamando io? Da Ponta Sieve. Perché io sono andato in piscina a portare il bambino a fare nuoto. Bene, bravo. E normalmente lui fa l'allenamento, lo fanno, si parla a nuoto e io vado in piscina per non stare in macchina 3 ore. Poi prima di entrare ho detto, ma fammi provare a chiamare Cruciani, tanto. Quindi sono qui in macchina, invece di fare piscina sono qui a parlare con te, insomma. Ottimo. E vabbè, sono vicino a casa di Renzi, volevo dire quello, insomma, via. Vabbè, questo l'abbiamo capito. Ciao amico mio, ciao Davide. Cruciani, ciao, che vuoi ancora? No, ti volevo dire che io lavoro in una pelletteria che vuoi, ascoltiamo il pomeriggio in podcast e praticamente c'è una signora che lavora con noi, Larisa, anche la Deborah e Vicky. Chi è? E sono tutte persone per benino e te hai cominciato a parlare di pisciare nel lavandino, si sono un po' tutte sono passate da Radio Maria alla Zanzara, insomma. Beh, ottimo, si sono tutte convertite. E ora male. Se noi arriviamo al lavoro e non mettiamo subito la Zanzara, è un casino, capito? Bravo, subito. Molto bene. Dici molto Davide, bene. Via, la Zanzara, è podcast, veloce, cosa molto fai? Bene. E se non sentono gente che parla di pulizie e parti intime, si incazzano pure un po'. Ciao amico mio, ciao. Allora ragazzi, parliamo della storia dei 5 Stelle delle firme, perché c'è un giallo. Innanzitutto dobbiamo dire, ha scoperto tutto Filippo Roma delle Iene, che da mesi ormai viene considerato una specie di mostro dai signori dei 5 Stelle, semplicemente perché fa il suo mestiere, cioè rompe i coglioni fa la destra Iena e a manca. Filippo, buonasera, ciao. Ciao, buonasera a tutti, buonasera. Senti, ma minacce, quante ne ha ricevute minacce da parte dei grillini? Cioè minacce, insulti, eccetera, su web? Ah, insulti, sono stato subissato, centinaia di insulti, pezzo di merda, venduto, servo di Berlusconi, servo di Renzi, servo di qua, servo di latte, sei arricchito. Cosa peraltro non vera, ahimè. Tanto non cambia, se fai l'inchiesta su 5 Stelle oppure su altri, cambia a cazzo, sempre lo stesso soldi. Non cambia a cazzo, niente. Esatto, però mi hanno subissato di offese. Però diciamo una cosa, io non lo so questo qua, è una domanda che ti faccio. Per eliminare tutte le cose, dillo anche tu. Li ho pure votati, mi insultano perché ho scoperto sta cosa delle firme false a Palermo, eccetera. Ma li ho pure votati, non lo so, è una mia intuizione. Li hai pure votati 5 Stelle? Te? No, non ho mai votato. Non ho mai votato in vita mia. No, te volevo salvare, invece no, niente, non ci sono riuscito. Non li ho mai votati, non li sopporto. Anzi, non li sopporto. No, poveracci, non è che li sopporto, lo trovo anche un movimento interessante. Però non li hai votati. Non li ho mai votati, mi incuriosiscono. Ora, avendo capito di che pasta sono fatti gli attivisti grillini, ho preso un po' più le distanze. Allora, qui c'è una cosa però. Bravo. Adesso, l'ultima scoperta di Filippo Roma è stata questa, praticamente, del portiere di una parlamentare che si chiama Lupo, il quale ha disconosciuto la sua firma, eccetera, eccetera. Dunque, ci sono due tipi di firme false, distinguiamo. Quelle vere, false, proprio clamorosamente false, cioè inesistenti diciamo. E quelle invece ricopiate, tanto per intendere. Peggio mi sento, C'è però una notizia nuova, con un punto interrogativo la mettiamo, cioè potrebbe essere stata falsificata addirittura la firma dell'inviato di Striscia la Notizia, che a Palermo è una specie di istituzione, che si chiama, com'è che si chiama, la Petix? Stefania Petix di cognome. Noi l'abbiamo sentita ed è venuto fuori questo, ti faccio ascoltare, senti. Petix, Stefania Petix. Senti, volevo che tu mi confermassi questa storia, che c'è anche la tua firma tra quelle falsificate, vero o no? Guarda, io mi ricordo di averla messa, poi se sia falsificata dovrei vederla bene per dirti che è falsificata. Sai perché ti dico? Perché il dubbio che ho è che sia invece mia. Per come la vedo è mia, però la voglio vedere dal vivo. Ancora? Allora, tu hai firmato per una lista, per la presentazione della lista dei 5 Stelle, sì o no? Questo è il punto fondamentale. I ragazzi mi hanno chiesto la firma, io gliel'ho messa, non è che c'erano quattro cattine. Ma perché cosa? No, ma ti hanno chiesto esattamente per la presentazione della lista, oppure hai firmato una cosa così per, diciamo, che non ti ricordi nemmeno? Perché quello è il punto. No, non ho avuto una, non è stata una mistificazione. Hanno detto, stiamo raccogliendo le firme perché vogliamo presentarci alle comunali, ok? La prima volta che ti hanno mandato questa firma hai detto subito no, questa qua non è la mia. Ma cioè... infatti ho detto mandatemi una cosa fatta meglio, perché quella lì proprio non si vede, non si... Sai cosa mi colpiva di quella firma che non fosse mia? Che non vedevo per come era messo il foglio. Io ho un cognome che fa lettere strane, Y e X. Sì. Per cui non vedevo la Y, che è fondamentale del mio cognome, perché se tu metti la I normale non sono più io, è ovvio. Vabbè, allora, che cosa dice praticamente? Dice che non sa se quella firma che voi gli avete fatto vedere, perché diciamo che, che voi gli avete fatto vedere i tabulati con la sua firma, non riesce a capire se quella sua firma è vera, è quella che lei ha messo, oppure l'hanno falsificata quella dei 5 Stelle. Tu che ci dici? Beh, effettivamente le ho mandato una foto via WhatsApp, quindi non è che gli ho mostrato il foglio di carta, cosa che sarebbe stata più semplice per lei. E all'inizio, vedendo la foto, mi ha detto non vedo nulla, mi puoi mandare una foto migliore. Quindi le ho mandato una seconda foto dove la firma era in primo piano. E una volta le ho mandato questa seconda foto, effettivamente mi ha ricordato e mi ha detto guarda, manca la Y, che è un elemento fondamentale del mio cognome. E vista così, onestamente, mi sembra falsa. Poi dopo un po' cioè ricopiata. Sì. Beh sì, però comunque è una firma ricopiata. Sì, comunque falsa, certo, comunque falsa, certo. Come un quadro, il quadro originale, poi c'è il quadro ricopiato, ma è falso. Sì, comunque sì. Lei dopo un po' mi ha contattato dicendo guarda, ho stampato il foglio, l'ho rivisto anche con delle mie collaboratrici, a dire il vero potrebbe essere anche mia. E quindi... Resta il mistero, resta questo resta mistero. Un po' mistero, resta un mistero. Se un giorno capito a Palermo, però è strano che ci sono un sacco di firme falsificate, proprio quella e quella giusta. Cioè, no? È un po' bizzarro, no? È un po' bizzarro. Perché... Cioè, secondo te è falsa quella firma? È ricopiata pure quella? Guarda, se tanto mi dà tanto, potrebbe essere falsa anche quella, perché insomma, noi abbiamo fatto un'analisi a campione da tutte le persone che ci siamo recati, tutti ci hanno detto che la firma era falsa. Vabbè, resta il mistero. La maggior parte sono false. Certo, resta il mistero. Anche la firma dell'inviato a Palermo, famosissima, quella col cane di Striscia la Notizia, è stata ricopiata in tutte le firme false dei 5 Stelle. Vedremo. Ciao, Fri. Ciao. Allora, dove andiamo? Andiamo a casa, andiamo. Io non voglio finire, stasera non voglio finire. Luisa, andiamo provincia di Como, dai, Luisa. Stasera non voglio finire, hai parlato come Uriemma. Sì, non voglio finire. No, come napoletano, non voglio finire stasera, fate tardi. Luisa, sì. Grazie. Luisa, dimmi. È un bel direttore. Pronto? Dimmi, sei Luisa, dimmi. Sì, buonasera innanzitutto. Buonasera, stiamo finendo. Lei mi dice sono felice di parlare con l'esimio dottor Parenzo. Eccoci qua, cara. L'inestabile. Lei è troppo è lenta. Allora, ho sentito prima l'intervento di quel signore che diceva di avere dei dipendenti. Sì, in Germania che li ha fatti votare sì. Invece esatto. A te che è successo? E allora, voglio dire, prassi consolidata da anni nelle case di riposo, negli istituti di cura, eccetera, eccetera. Suore, preti, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, allora? Appunto, velocissima. Questo ci dovevi dire. Esatto. Cioè, sei rimasta in collegamento per dirci per questa cazzata. Intanto mi sono divertita da morire. Una roba incredibile, guarda, cioè, succede veramente di tutto, ragazzi. Finiamo con l'urlo. Fatemi finiamo solo con una cosa, l'unica cosa che mi dà sollievo, l'unica cosa che mi dà pace e serenità, l'urlo di Richard Benson, l'unica cosa che mi dà pace e serenità. Ciao. Fermo. Ma che è successo? Oh. Fermo. Ma che sono? Oh mio Dio, bianco colore. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare. We'll be right back.